sul papere, la coglienza si rende cosa da dare. Toccate i vostri palloncini colorati, non c'è tanto ancora che ruba per mangiare. La gente corre, la gente scappa, la vita brutta c'è da vostri giudici. Io sono ciò che non avete mai pensato, incredibile prova del vostro stupo, sono lo scatto della vostra produzione.